A bordo campo di Dario Ricci. Una Milano che guarda all'Expo 2015, questo è il grande tema a cui appunto mira la Milano dell'economia, della cultura, ma a cui deve anche tendere per forza la Milano dello sport, visto che se Milano vuole essere capitale fino in fondo lo deve essere anche per quanto riguarda lo sport, e se lo è per quel che riguarda la cultura sportiva, e lo sappiamo bene, ben diversamente la situazione si sviluppa per quanto riguarda gli impianti e le loro disponibilità cittadine. Oggi parliamo di Milano in questa puntata di A Bordo Campo. Perché? Perché da pochi giorni, da poche settimane si sono svolti proprio a Milano gli Stati Generali dello Sport. Iniziativa lodevole, direi, perché ha permesso di fare il punto su quella che è la situazione dello sport di vertice, sì, ma soprattutto dello sport di base milanese, e ci sono dei picchi, degli alti, ma dei bassi anche, che creano una situazione disomogenea, delle difficoltà, dei punti d'eccellenza, ma anche molti nodi da sciogliere, molti nodi da risolvere. Allora proviamo a fare il punto, perché certo Milano non è città banale in questo quadro generale. Ne parliamo con il nostro collega e amico Riccardo Porcù. Benvenuto Riccardo a Bordo Campo, che ha seguito per noi gli Stati Generali dello Sport milanese. Beh, prima di tutto, prima di sentire i tanti contributi che hai raccolto nell'occasione, impressione generale, la Milano dello Sport che guarda gli Expo 2015, per quello che hai percepito, come sta? La situazione sicuramente di Milano in vista dell'Expo 2015 è ancora molto critica. In particolare per quanto riguarda gli impianti, non soltanto i grandi impianti, pensiamo per esempio al Palalido, che è ancora in fase di ristrutturazione, anzi prolungata, perché ci sono stati dei grossi problemi riguardanti il ritrovamento di amianto, ma anche al Palasciarpa, totalmente abbandonato, ma soprattutto per quanto riguarda i piccoli impianti. Penso ad esempio alle piccole palestre scolastiche, alle piccole palestre in cui ci sono di solito i punti di aggregazione più importanti per i singoli quartieri della città, ma questo non soltanto a Milano ma in tutta la Lombardia, e questo è il problema, e abbiamo avuto modo di vederlo chiedendolo ai vari esponenti delle varie discipline negli Stati Generali dello Sport. Sì, è vero pure che purtroppo quello dell'impiantistica scolastica non è tasto dolente esclusivamente ai noi del capoluogo lombardo, ma è chiaro, nelle grandi città il problema è sicuramente più accentuato e più sentito. Una Milano che prova a riscattarsi quantomeno, e lo abbiamo colto chiaramente proprio in occasione di questi Stati Generali, promuovendo lo sport all'aperto con le domeniche a piedi, l'abbiamo visto, pur segnate dalle polemiche inevitabili, e anche sfruttando gli spazi all'aperto che ha a disposizione. Non dimentichiamo il progetto relativo ai tanti campi da basket in città, che sta coinvolgendo sia l'Olimpia Milano sia il comune. Ecco, a questo proposito mi pare che tu hai sentito proprio la voce dell'assessora allo sport di Milano, Chiara Bisconti, che ha provato a fare un po' il punto di questa situazione, vero? Sì, assolutamente. L'assessora Chiara Bisconti ha considerato, diciamo, un fiore all'occhiello dell'amministrazione Pisapia per l'appunto questo progetto delle palestre a cielo aperto. E si tratta fondamentalmente del cercare di diffondere quanto più possibile lo sport di base, praticarlo in strada, nelle piazze, nei parchi, cercando di aprire il più possibile ai singoli, soprattutto dilettanti in particolare. E allora sentiamola proprio Chiara Bisconti al tuo microfono. Una situazione di grandissime potenzialità in termini sia di persone che lo praticano, di città che è già pronta nei luoghi atipici dello sport ad accoglierli, ma anche di impianti che però non si riesce a concretizzare. Quindi ci sono sempre delle grandi potenzialità ma che non si riescono a sfruttare appieno. Lo sport negli impianti è un tenere costretto questa voglia di sport, costretta la voglia di sport delle persone, che invece non si riesce a tenere ferma. Le persone hanno voglia di muoversi, di far movimento, e quindi confinare gli sportivi negli impianti al chiuso è un errore strategico. Quello che si sta facendo con Milano Palestra a cielo aperto è proprio una delle risposte più corrette ai problemi della sicurezza. Avere le persone che tranquillamente animano le strade, animano i parchi in qualsiasi orario, è un modo di rispondere al bisogno di sicurezza delle persone. La città viva è una città sicura. E allora, tanti concetti sviluppati dall'assessora. Sì, è vero, insomma, è chiaro che costringere le persone negli impianti non vuol dire proprio limitarne la libertà espressiva in materia di sport. Creiamo gli impianti ad hoc e anche quelli saranno strumento per esprimere, no, queste potenzialità, giusto Riccardo? Ecco, però un tema che è emerso forte dagli stati generali nel confronto tra Milano e invece quella che è la situazione nei piccoli comuni dell'Interland, nei piccoli comuni lombardi, è proprio, se c'è un elemento comune, questa difficoltà nel gestire l'impiantistica, no, comunale. Assolutamente, in particolare poi nei piccoli centri si sente ancora più forte la stretta fiscale in generale nell'ultimo periodo, e quindi riesce veramente molto difficile riuscire a tenere aperti, ma andare avanti, ma anche semplicemente spendere i soldi per il riscaldamento delle palestre, che può essere una inezia, però si tratta comunque di spese che i piccoli comuni non hanno la possibilità di affrontare in questo periodo. Ecco, a questo proposito hai intervistato Alessandro Russo, presidente del Dipartimento delle Politiche Giovanili e dello Sport dell'ANCI Lombardia. Sentiamo cosa ti ha detto. Abbiamo dei problemi importanti, la situazione difficile che versano gli impianti sportivi, perché noi siamo abituati a parlare dei grandi impianti sportivi in situazioni di difficoltà come alcuni a Milano o in altre grandi città, ma ci sono tante palestre all'interno delle scuole elementari e medie, piccoli centri sportivi che non hanno, ormai da diverso tempo non ricevono manutenzioni perché non si riescono ad avere le risorse per sostenerle. Soprattutto si fa fatica a lanciare dei nuovi investimenti per progetti mirati a questo tipo di attività sportiva. In momenti così difficili favorire la socialità è una priorità, permettere a genitori di andare a lavorare mentre alcuni ragazzi fanno attività sportiva è una priorità. Ci sono delle situazioni che stanno diventando difficili, ad esempio io faccio l'assessore in un comune che è Solaro di 15.000 abitanti e abbiamo dei problemi fortissimi perché noi l'anno prossimo faremo fatica a assegnare alle società sportive tutti gli spazi per promuovere la loro attività perché non abbiamo più capienze, non abbiamo la possibilità di offrire nuove attività per lo sport. Eh sì, insomma, situazione difficile dal punto di vista dell'impiantistica. Beh, Riccardo, continuiamo in questo viaggio tra i bassi ma anche tra gli alti. Qualche motivo di speranza dovrà essere pure emerso da questi stati generali in merito all'impiantistica. Se questa è la situazione di base, come si sta lavorando per porvi rimedio? Anche se poi, ricordiamolo, ogni impianto, ogni sport ha la sua storia, il suo percorso e probabilmente la sua soluzione. Beh, sicuramente ci sono soprattutto tantissimi progetti in campo per rendere il più possibile gli impianti multifunzionali e polivalenti, che è il modo migliore per cercare di mandarli avanti, di modo tale che ogni giorno vi sia una disciplina diversa che può usufruire di quel determinato impianto. In questo senso è importante che magari degli impianti vengano costruiti insieme, penso ad esempio in ambito pallavolistico e anche di basket, di pallacanestro, per dire. Quindi sicuramente il futuro, e di questo si è dibattuto agli stati generali dello sport, è quello di cercare di andare sempre più verso una multifunzionalità e un tentativo di integrare le varie discipline tra loro, nel venirsi incontro, ma in questo ovviamente serve tantissimo l'amministrazione comunale per quanto riguarda Milano, ma soprattutto regionale e dello Stato. Assolutamente, anche perché questa soluzione permette anche di una migliore gestione dei costi, un'ottimizzazione delle risorse. Forse mi viene in mente ad esempio quel dialogo che si sta sviluppando per l'utilizzo del forum di Assago anche per quello che è l'hockey su ghiaccio. Staremo a vedere, perché Milano sì ha l'Agorà per quanto riguarda l'attività di campionato, l'hockey Milano Rossoblu ospita, gioca le sue partite casalinghe all'Agorà, ma è chiaro che se ha ambizioni europee come quelle rappresentate dalla Continental Hockey League, che di fatto è una sorta di Champions League dell'hockey, dovrà avere un impianto sicuramente di maggiori dimensioni. Mi sembra interessante a questo punto sentire il presidente del CONI Lombardia, Pierluigi Marzorati, un nome che non ha bisogno di presentazioni nell'ambito del basket, ma anche e soprattutto nell'ambito dello sport italiano, perché anche lui al tuo microfono ha provato a fare un po' il punto della situazione, lo stato dell'arte, no? Allora sentiamolo subito. La situazione è difficile, quindi non è che voglio rimpallare responsabilità, però voglio ricordare che gli impianti hanno una proprietà che può essere pubblica o privata, e sicuramente il CONI non è proprietario di questi impianti, no? per cui noi possiamo cercare di creare dei presupposti, per esempio quello di chiedere un parere del CONI per avere un censimento innanzitutto sugli impianti che sono a norma, che sono agibili, per poter far fare l'attività in assoluta sicurezza. Credo che sia giusto che comunque anche in momenti di difficoltà si debbano trovare delle risorse per almeno mettere a disposizione, mettere in sicurezza a norma, rendere agibili gli impianti esistenti. È certo che è un problema grosso a Milano, perché abbiamo delle situazioni di carenza di impianti sia per l'attività di vertice ma anche per l'attività di base. Il Palalido deve essere pronto già da parecchio tempo, quindi spero che la cosa vada avanti, perché Milano deve avere un impianto adeguato, pubblico adeguato, di una certa capienza. Siamo anche tra 2 anni Expo, e quindi credo che si dovranno prevedere delle manifestazioni, però ecco, difficile fare manifestazioni se non siamo a disposizione di impianti. Eh sì, assolutamente necessaria una nuova impiantistica per Milano. Riccardo, fra poco faremo una piccola pausa. Una curiosità, tu che milanese non sei, che sport pratichi qui a Milano? Corsa, footing, oppure un po' di basket, che sei alto? Semplicemente un po' di calcetto quando capita. Ah, quindi insomma ti diverti nel pallone, insomma nei palloni, o ormai adesso oppure, vista la stagione. Oppure nelle palestre a cielo aperto, quei campi di calcetto liberi aperti. Quindi l'assessora Chiara Bisconti potrà fare di te l'ideale testimonial della sua campagna. A bordo campo. La Milano dello sport verso l'Expo 2015, questo è il tema di oggi qui a bordo campo. Si sono svolti da poco, come dicevamo, gli stati generali dello sport a Milano, e allora stiamo provando a fare il punto della situazione con Riccardo Porcu, amico e collega oggi qui ospite. Beh, Riccardo, dicevamo, spesso per costruire i nuovi impianti, no, non bastano gli aiuti dello Stato, serve anche un forte impegno delle federazioni. A questo proposito, hai sentito Adriano Pucci Mossotti, vero? Presidente del comitato regionale della FIPAB della Lombardia. Esattamente, infatti ci ha raccontato la sua esperienza personale della FIPAV, dei grandi soldi, dei grandi investimenti che ha dovuto sopportare, il mutuo che poi sono costretti ovviamente ancora a ripagare, per costruirsi un impianto che però adesso ha riqualificato una zona importante della città. Bene, tra l'altro mondiali di pallavolo donne alle porte il prossimo anno, e quindi sicuramente Milano sarà una delle città più coinvolte. Sentiamo allora intanto Adriano Pucci Mossotti. Io credo che Milano debba trovare le risorse, perché se Milano non ha le risorse, non ha le risorse per fare gli impianti. La sportiva che si prende in carico un impianto dal comune, il comune gli chiede di fare anche le manutenzioni straordinarie. È una cosa inaccettabile. Perché? Ma perché l'impianto è del comune, non è della sportiva. Tu puoi chiedere le manutenzioni ordinarie, ma non le straordinarie. Noi abbiamo un'esperienza, tra l'altro virtuosa, col comune di Milano, con la Federazione Pallavolo, per questa riqualificazione del centro federale Pavesi, un'area di 42.000 metri quadri, dove praticamente c'era un campo da calcio, cioè dei campi da tennis non inutilizzati, e tutto il resto era un degrado tremendo. Abbiamo fatto un palazzetto da 1000 posti, oggi come oggi è l'unico palazzetto che c'è a Milano, che Palalido non c'è, quindi a Milano ha un palazzetto da 1000 posti oggi, che è una cosa inaccettabile anche questa. Abbiamo ridato vita a questa zona, a questo impianto, però siamo una federazione, ci abbiamo messo 9 milioni di euro, cioè vuol dire che adesso stiamo pagando i mutui, quindi vuol dire, non è che puoi chiedere questo a tutti. Non c'è un impianto scolastico della provincia che è agibile. Cosa vuol dire agibile? Che tu puoi entrare solo con una deroga fino a 99, diciamo, ingressi, compresi gli atleti. È evidente che se arrivano i papà, le mamme o uno ha un po' di pubblico, questa cosa non si può fare. Ci sono tanti piccoli interventi che si possono fare con poca spesa. Bisogna che le amministrazioni si muovano. E allora, insomma, è un bel peana queste testimonianze che raccontano soprattutto ciò che non va, perché di quello che va inevitabilmente si parla meno, e forse anche giusto così, no? Perché una grande città deve saper fornire servizi all'altezza. Tante cose che non funzionano, c'è anche però chi Milano se la gode e se la diverte così com'è, perché ha la forma ideale per il proprio sport, vero Riccardo? Hai raccolto una testimonianza davvero simpatica. Esattamente, ci sono anche alcuni ragazzi che vivono la città in una maniera molto diversa, e quindi anche il grigiore e i vari palazzi, i muri che ci sono in questa città possono assumere un valore decisamente diverso facendo parkour. Cioè? In pratica è una disciplina che consiste nel muoversi, nel saltare, nel superare delle barriere, degli steccati, che poi in realtà altro non sono che i muri qualsiasi, i gradini qualsiasi che ci sono in questa città, in qualsiasi città. Quindi insomma degli scavezzacollo che però a Milano se la divertono alla grande. Sentiamo allora Demetrio Crea dei Milan Monkeys, l'associazione parkour di Milano. Milano è una delle città in cui il parkour è più sviluppato in Italia, decisamente sì, ha un bel grado di urbanizzazione, è una disciplina per cui serve un paio di scarpe e un pantaloncino. Con la nostra pratica riusciamo a vedere cose che non tutti vedono, riscoprire dei muri, riscoprire delle cose che non sono state create per quell'utilizzo, trasformarle e dargli un senso anche estetico migliore rispetto al normale. Questi gli amici del parkour, insomma Milano con le sue difficoltà ma anche con le sue potenzialità permette anche di sviluppare la fantasia di chi cerca discipline alternative e innovative. Ben più tradizionale invece proprio a Milano, come accennavamo, è l'hockey su ghiaccio, no? Una tradizione che affonda negli anni 70-80 e che ha avuto pagine gloriose e di nuovo ne sta scrivendo con l'hockey Milano rosso-blu, che è tornato ai vertici del movimento italiano e che punta decisamente anche a far bene e a spiccare in Europa. Quel che serve però, perdonatemi la battutaccia, è il ghiaccio, no Riccardo? A che punto stiamo? Assolutamente, ancora adesso non si sa bene quale possa essere il futuro del ghiaccio in questa città a Milano. Potrebbero aprirsi però degli spiragli, vi sarebbe la possibilità che al forum di Assago vi sia per l'appunto modo di giocare anche ad hockey, quindi utilizzare o fare anche questa disciplina, però si tratta ovviamente di una decisione di là da venire. Beh certo, insomma alcuni spiragli si sono aperti, magari sicuramente trattative saranno in corso e sono in corso, ma bisogna fare dei lavori che hanno dei costi, necessitano di investimenti, oppure si può pensare anche di guardarsi intorno, per esempio Sesto San Giovanni. Sì, l'esperienza di Sesto San Giovanni insegna che però i costi sono molto molto alti. Infatti abbiamo parlato con l'ex sindaco di Sesto San Giovanni e ci ha detto che era sicuramente molto difficile anche soltanto per la manutenzione, soprattutto per la manutenzione, tirare avanti, portare avanti un progetto di un palaghiaccio. Sentiamola allora la testimonianza di Giorgio Oldrini. Figurati un palaghiaccio, sono naturalmente di ordine economico prima di tutto, nel senso che il costo di gestione è molto alto perché l'utilizzo di acqua da un lato e di energia dall'altro è non solo molto caro ma è cresciuto enormemente in questi anni. E quindi si tratta di mettere insieme attività che mantengano in efficienza la struttura. Per esempio occorre, da un lato io credo che l'acqua per uso pubblico deve costare meno dell'acqua che invece viene normalmente usata, quindi questo abbatterebbe considerevolmente i costi. E poi un uso promiscuo, nel senso che il Palazzo di Sesto viene usato anche per altre manifestazioni di altro tipo, soprattutto in epoca in cui naturalmente il ghiaccio non funziona, e questo consente di abbassare notevolmente i costi. Sono strutture che possono deperire abbastanza rapidamente e quindi occorrerebbe fare un investimento massiccio per rimetterlo, diciamo così, al livello dei migliori italiani. E allora questa è un po' la situazione che abbiamo provato a fotografare, che Milano stessa ha provato a fotografare nei suoi stati generali dello sport, guardando a quel 2015 che per Milano è il futuro, è l'Expo. Riccardo Porcu, in conclusione, ringraziandoti per essere stato un po' il nostro caronte in questo viaggio, l'impressione che ne hai ricavato, Milano da dove deve ripartire per essere una capitale anche dello sport? Beh, sicuramente è stato un incontro molto importante, perché il fatto che tutte le varie discipline si siano riunite in una sola sede, secondo me può essere molto utile per il futuro, per lo sviluppo dello sport in questa città e per quanto riguarda soprattutto l'impiantistica. Il fatto che di questi temi se ne sia parlato significa anche e soprattutto che si sia trovati tutti insieme alcune soluzioni con la pubblicazione poi di una carta delle richieste che andranno fatte per l'appunto al comune. Secondo me è importante per lo sviluppo futuro di questa città, se queste richieste ovviamente verranno poi esaudite. E allora Milano attesa alla prova del 9 anche e soprattutto per quanto riguarda i suoi impianti e il suo sport. Grazie a Riccardo Porcu per essere stato nostro ospite oggi a Bordo Campo. Grazie a voi.